Stay up. I'm taking a sample. Stay up. Rimango bello e famoso, rimango come quei fiori rari, rimango come in un viaggio immerso in un safari di parole, mostri immaginari. Rimango al mio posto, rimango più del costo delle cose, rimango felice e spensierato, così come ho iniziato, rimango senza vizi, rimango quello che cerca di essere onesto con i suoi limiti. Non parlo mai di quello che non so fare, non parlo di quello che può ferire, rimango quello che gli piace far festa. La mia vita è una carovana, un film che sembra Good Morning Vietnam. Non faccio il boss, anche se un po' lo sono, faccio sempre il solito sorriso che ti ama. Quando faccio su ci metto dentro Dio, la cura e non la grana. Quando scrivo ancora i miei miti, non ho mai creduto alle persone che mi volevano mettere contro, e ora anche nemici. Vorrei mettere in una canzone ogni tuo più bel sogno, farti splendere e sollevarti dall'andare a fondo. Vorrei far l'amore anche per una folle sera di sole 2 ore, farlo rubando tutto il tempo agli dèi, farli anche se al mondo poi non saremo insieme, non saremo io e lei. Vorrei fare l'amore rubando il tempo anche agli dèi, farlo anche se al mondo poi non saremo insieme.